Annas, gli uomini. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Di, mi rifugio nel Signore degli uomini. مَلِكِ النَّاسِ. Re degli uomini. إِلَهِ النَّاسِ. Dio degli uomini. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Contro il male del sussurratore furtivo. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Che soffia il male nei cuori degli uomini. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Che venga dai demoni o dagli uomini.